piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Poche ore fa sono stati pubblicati i risultati del primo rapporto Censis Coldiretti. Gli italiani nel 2016 hanno speso 78 miliardi di euro al ristorante. E ci sarebbe la crisi, qualcuno non ce la racconta giusta. Il tuo vicino si lamenta che non hai soldi per il condominio? Il tuo collega piange che non ce la fa a finire il mese con lo stipendio? Il tuo amante ti propone una vacanza mica ragnosa? Bene, sembrano disperati, ma forse recitano la parte degli spiantati. Aiutaci a smascherarli. Diventa anche tu detective del Chiagni e Fotti. Ecco alcuni indicatori di benessere occulto. Tu, aiutaci a scoprirne altri. Vogliamo trasparenza. La crisi deve colpire tutti. Altrimenti che crisi è? Gli indicatori di benessere occulto. Questo faremo questa mattina. Faremo un servizio al paese. Avete sentito? Siamo sulla notizia. Poche ore fa è stato pubblicato questo rapporto Censis Coldiretti. Non ce ne vogliono i ristoratori, figurati. Non vogliamo censurare il lecito diritto di andare a mangiare al ristorante, a pranzo, a cena, a colazione, quanto volete. Però se nel 2016 sono stati spesi 78 miliardi al ristorante, evidentemente qualcuno poteva andare al ristorante. Voi direte, perché vanno al ristorante? Perché non si cucinano due spaghetti in compagnia, in famiglia? Perché non se ne stanno a casa, non vanno a fare la spesa al supermercato, invitano gli amici a casa? Perché? Perché? Questo è un indicatore di benessere occulto. Evidentemente la crisi c'è, ma non è per tutti. Avete sentito? Quello che noi vi chiediamo questa mattina è diventare detective del Chiagni e Fotti. Quelli che si lamentano, piangono, non ce la faccio più, avete, ve l'ho detto nel cappello confezionato velocemente in questi pochi istanti, non ce la faccio, scusa, non posso, prestami qualcosa, guarda, veramente un momento di crisi. Poi vedi, vanno in vacanza, hanno macchine lussuose, vestono benissimo, i figli hanno tutti il telefonino di ultima generazione, qualcosa non funziona. Questa mattina riportiamo a un livello di giustizia anche il concetto di crisi. C'è la crisi, va bene, lo accettiamo, prenderemo le giuste precauzioni, ma la crisi deve essere per tutti. Quindi questa mattina denunceremo, guardando con attenzione nell'orto del vicino, dove l'erba è sempre più verde, quali sono i consumi occulti, qual è il benessere nascosto. Vi do qualche piccola indicazione. 800240024, aspetto le vostre segnalazioni. Indicatori di benessere occulto. 1. Se provate a prenotarvi per una manicure o pedicure, vi danno appuntamento minimo una settimana dopo. Perché non ci si fa più le unghie con le forbicine e la limetta da soli? 2. Le città sono piene di auto in doppia fila. Se la benzina costa tanto, perché le persone non vanno a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici? 3. Le scarpe hanno tutte suola e tacchi incorporati. Tutti portano le sneakers. Quando si consumano, si buttano. Perché nessuno vuole più risuolare le scarpe? 800240024. Aiutateci a scoprire chi ha sicuramente un tenore di vita superiore a quello che vuol dimostrare, ma non perché siamo invidiosi, perché bisogna naturalmente avere trasparenza su quelli che sono i consumi per vivere meglio tutti. Abbiamo indicato quelli che secondo noi sono dei primi indicatori di benessere occulto. Provate per caso, naturalmente non appartenete a quella sorta di persone privilegiate che si fanno pulire, tagliare e mettere a posto le unghie da qualcun altro. Avrete la vostra limetta, il vostro tagliaunghie comprato nel mercatino, trim, avete le vostre forbicine, vi fate il pediluvio, poi vi tagliate da soli anche le unghie dei piedi. Però pensate, se voi provate a prenotare manicure e pedicure, minimo aspettate una settimana. Beh, evidentemente c'è chi se la fa, c'è chi comunque ha soldi per farlo. Avete notato? Guardate le macchine in doppia fila. Perché nessuno prende l'autobus? Perché nessuno va a piedi, va in bicicletta? Perché? Perché c'è un benessere occulto. Le scarpe. Una volta le scarpe si consumava la suola, si consumavano i tacchi, si portava il ciabattino, le risuolava. Una volta, due volte, tre volte. Adesso con questa scusa delle scarpe tecniche. C'hanno la suola e quando si consuma si butta via. Anche questo è un indicatore di benessere occulto. 800240024. Marco, buongiorno. Buongiorno. Ha qualche indicatore di benessere occulto da denunciare? Ha osservato attentamente? Beh, diciamo, Questi sono condivisibili i temi che avete appena. Beh, aggiunga qualcun altro, noi ne abbiamo molti, li abbiamo preparati, li stiamo preparando a tempo reale. In realtà diciamo, quello che ho anticipato prima telefonicamente era un sistema per camuffare il proprio tenore, che è anche un sistema totalmente legittimo, che è quello dei benefit aziendali. Ah sì, dica, questo è importantissimo. È un sistema, insomma, per cui alla fine tutti hanno dei benefici, quelli coinvolti, chiaramente gli attori coinvolti. Ma faccio un esempio di benefit aziendale che uno magari fa finta che non ce l'ha. Che ne so, si va in vacanza a spese dell'azienda, cose del genere. Ma chiaro, certo, computer, sono, telefonino. Banalmente io devo lavorare 3 giorni, però stranamente la trasferta dura di più perché ci sono gli spostamenti o quant'altro, o anche la stessa macchina che dovrebbe essere utilizzata solamente durante gli allora di fare lavoro. La cresta sui benefit aziendali e si ottiene un beneficio occulto. È un beneficio occulto perché chiaramente se uno dovesse andare a controllare le spese di queste persone non risulta che spendano magari, che ne so, anche un centinaio d'euro per un pranzo di lavoro. Magari vanno in albergo a spese dell'azienda, poi dicono al portiere vorrei la coperta viva e quella la fanno mettere nella fattura. Esatto. Benefit aziendale, ecco, questo è un altro indicatore di benessere occulto. Quante coperte vive prendono le persone in trasferta? Quante volte vanno al ristorante, si fanno mettere una bottiglia, poi se la portano a casa, se la bevono con la moglie? Mica va bene così. Guido, buongiorno. Sì, buongiorno signor Nicoletti. Guardi, io l'ho sentito affermare che questo sia un indicatore di benessere occulto. Quale di quelli che abbiamo indicato? Relativo alle spese al ristorante. Sì. Al di là del fatto che io ho lavorato 20 anni all'estero, quindi so bene quello che dico, all'estero si spende molto di più che in Italia. Noi siamo in Italia, però che vuol dire questo? Ecco, sì, d'accordo, però questo non vuole dire che gli italiani siano più ricchi o ricchi, assolutamente. Ho fatto un esempio, dico, troviamo degli indicatori di benessere occulto, serenamente, divertendosi, scherzandoci sopra, le pare sia una cosa seria. Parto da una notizia che mi dà sempre comunque agganciare alla realtà, sono spesi 78 miliardi per mangiare fuori. Che un indicatore di benessere occulto possa essere quante vetture Mercedes di lusso vengono vendute, una pizzeria, cioè quanti ragazzini vanno in pizzeria, le scuole, perfino le maestre portano i bambini a mangiare la pizza e magari spendono 8-9 euro. Voglio dire, mi consenta, ma proprio... Mi ricordo un'altra persona che diceva, guarda, i ristoranti sono pieni, dov'è la crisi? Vabbè, ho capito, Luigi, il suo punto di vista. Lei cosa fa, il ristoratore? Perché non è che voglio criticare... No, io non faccio il ristoratore affatto, le ho detto che ho lavorato 20 anni all'estero ma cosa vuol dire? Scusi, delegato di aziende. Ma scusi, Luigi, lei la... superficiale questa... Luigi, ma stiamo parlando della gente che non si fa le unghie e se le fa con la limetta, ma vuole che è una cosa seria questa? Scusi, ma metta la sua veemenza in cose più... Stiamo scherzando sul fatto che le persone sono invidiose degli altri, dicono tu invece che farti le unghie con la limetta e te vai dalla manicure, pedicure e manicure, scusi, non se la prenda così, è superficiale, no, ma può essere serio. La trovo veramente un'affermazione molto... Vabbè, senta Luigi, va a farsi la passeggiata e stia tranquillo. Guido, buongiorno. Palle, ragazzi. Guido, ha parlato Luigi. Buongiorno Nicoletti. Sì. Indicatori di benessere occulto. Scusi, una precisazione solo sul termine ristorante. Oddio mio, ragazzi, stamattina siete fissati. Ascolti. No, mi togliete la voglia di scherzare, scusi. No, che vuol precisare? Dai. Precisi. Sulla questione di ristorante. Sì. A Lucca ci sono ristoranti con 10 euro, ma... Sì, ho capito, bravo Luigi, l'ha detto, ho letto anche il suo... povera va al ristorante, ci lasci divertire questa mattina. Buongiorno, arrivederci. Samuele. Samuele, buongiorno. Vuole anche lei precisare che alcuni italiani vanno al ristorante anche con pochi soldi, mangiano il kebab? Lo dica. No. Allora, indicatore di benessere occulto. Io volevo portare la mia esperienza, che praticamente ho un mio fratello... che è l'esempio emblematico, cioè nel senso lui è sempre il telefonino all'ultimo grido. Parliamo di cose serie. La moglie ha le unghie rifatte sempre, la macchina ogni tanto se la cambia. Bravo. Tutto quanto, però quando c'è da fare un regalo per mia mamma, questo è micragnoso, è qualcosa che facciamo un regalo tutti assieme, niente, non ci sono soldi. Lei ha capito, insomma, il tono della trasmissione. Io adesso mi diranno che tratto male il pubblico, ma potete la mattina ammorbarci quel barlume che abbiamo di allegria facendoci le maestrine alla penna rossa per dirci che nel ristorante c'è anche la gente che paga solo 6 euro? Abbiamo capito, abbiamo preso come scusa la notizia del Censis col Diretti 5 minuti fa per dare modo di parlare di una cosa divertente, giocare su un fenomeno sociale che è l'osservare comunque i consumi del vicino, dire vedi come fa a permetterselo. Lei ha capito perfettamente, Samuele, perfettamente in linea. Grazie Samuele. E allora andiamo avanti, io vi dico i miei suggerimenti di indicatori di benessere occulto, poi voi ditemi i vostri. 4. Dai parrucchieri, sia per uomo che per donna, c'è sempre la fila. Perché nessuno si taglia e lava più i capelli a casa? 5. Al supermercato vendono almeno 3 tipi diversi di gel lubrificanti per uso sessuale promiscuo. Agli agrumi, ai frutti di bosco, al sassofrasso. Perché la gente per fare le cose zozze contro natura non usa l'olio di semi o l'olio di palma, che costano meno? 6. In commercio ci sono almeno 120 tipi di bocconcini e patè per cani e gatti, anche alle ostriche e al caviale. Perché ai nostri cari amici a quattro zampe non si danno più da mangiare gli avanzi del pranzo e della cena? È chiaro adesso il senso della trasmissione. A me dispiace poi trattare male le persone, poi mi dicono che mandano le lettere accorate, scrivono alla radio, scrivono ai massimi vertici del potere che governa il mio misero sostentamento, dicendo Nicoletti tratta male il pubblico, non fa parlare la gente. Ma scusate, io ho a disposizione 33 minuti puliti. Persone dicono cose noiose e sparano sempre una cosa veramente banale, dire sì, anche le persone spendono 4 euro al ristorante. Non servono, non sono funzionali. Avete sentito qual è il mio suggerimento? Avete visto nei supermercati, stranissimo, è l'unica nota colorita di allegra irruzione dell'irrazionale nel quotidiano fare la spesa. Nello stesso settore in cui vendono i callifughi, le cremine per le ascelle che puzzano, i pannolini per i bambini, ci sono dei contenitori colorati bellissimi, siluriformi, che anche l'idea in sé capisce quale poi è l'uso del loro contenuto, che hanno dei fantomatici lubrificanti, che c'è scritto per fare i massaggi, ma sappiamo tutti a cosa servono, e vanno a ruba. Quindi se la gente può spendere quei 7, 8, 10 euro per comprarsi l'affare con dentro il gel alla spremuta di agrumi o alle fragole, e non va nel settore degli oli economici dove prende un olio di semi per 3 euro, ce ne prende 2 litri, vuol dire che evidentemente ha soldi da spendere. Pasquale, buongiorno. Buongiorno. Ha capito lei il senso della trasmissione? Il senso della trasmissione l'ho capito. Perfetto. Ma voglio fare una constatazione. Bravo. Più che diciamo parlare di occulto come lei ben ha definito. La constatazione è questa, venendo dal mondo della distribuzione, sono un commerciante, diciamo, adesso all'ingrosso, prima al minuto, va bene, sto nel campo del commercio, noto sempre con più dispiacere che la gente ama, quindi togliendosi un po' di qualità della vita, in questo caso, per questo esempio che sto per farle, fare sempre un giorno da leoni e 10 virgolette da pecorelle, per non cioè dire una botta di vita e 10 giorni di micragna, così. Esatto, e questa è una constatazione che vado un po' studiando da vediamo di definire questa sua osservazione, definiamola meglio. Allora, metta caso, visto che l'esempio del ristorante è quello che è più infastidito gli italiani, sì, perché gli italiani passano la maggior parte del tempo al ristorante, devono provarci con una donna, la portano a mangiare, devono uscire un gruppo di amiche, vanno a mangiare. Cosa fanno quando vanno a mangiare? Parlano dei ristoranti dove andranno a mangiare la settimana dopo. È un'ossessione, non li si può toccare, questa è una cosa che non si può dire, ecco. Anzi, le dico di più, la vita sociale paradossalmente si è azzerata, perché è un paradosso quello che sto per considerare. Addirittura si dà l'appuntamento nei pressi del ristorante o dentro il ristorante per ci mangiamo qualcosa. Dove c'è casotto, diciamo, perché purtroppo ci sono rumori, eccetera, il sabato sera, la domenica non ne parliamo, allora senza affrontare, magari senza conoscerci neanche, senza avere modo perché l'unica maniera per uscire è andata ad andare a mangiare. Esatto, ma si rende conto che in Italia ogni 5 minuti apre un bistro o un ristorante? Le strade ci sono 10 posti dove si mangia e un posto dove ci si può vedere senza mangiare. Guarda che è un'ossessione il mangiare assieme. Perché bisogna sempre mangiare assieme? Non capisco, perché poi l'attività gastrica è un'attività che in sé anche degli aspetti mica sempre gradevoli, cioè non si può uscire e dire andiamo a camminare insieme, andiamo a ballare insieme, andiamo a nuotare assieme, andiamo ad arrovellarci nelle lenzuola assieme, no, bisogna andare a mangiare, chissà perché. Ma il paradosso è, stavo dicendo che se si parla, ecco, viene fuori, diciamo, il mio ambito, diciamo, commerciale, se si parla a qualcuno direttamente, si propone un prodotto che magari esce fuori fuori dai canoni o quelli che magari bisogna prepararlo. Faccio un esempio. Allora, esempio, cioè, molte volte mi capita di spiegare a una signora che un risotto bisogna farlo in un certo modo, se si ha bisogno, se si vuole un certo aspetto qualitativo, certo. Se non si vogliono tante deve cuocere almeno dentro. 14 minuti, se no che risotto è? Esatto. Sennò è pappa. Però bisogna stare attenti là, non è che si toglie niente al tempo, invece di prendere magari un risotto pronto, di andare a prendere un risotto dal ristorante già pronto. Bravo, cioè, che costa di più, fra l'altro, costa molto di più. Ma moltissimo di più. Oh, vede che ha trovato un consumo occulto. Gli italiani, quando devono comprare un prodotto, vogliono spendere di più magari, ma faticare meno. Quindi invece comprare un buon riso che bisogna cuocerlo, poi metterci tutti i condimenti, si compra il risotto già fatto, si fa bella figura. Sì. E via, sì. Lo so. Ho preparato un buffet ieri a una zia ma mia che era zoonomastico. Ho fatto l'ira di Dio, ho fatto delle paste sfoglie, nel frattempo che cucinavo io personalmente, senza l'aiuto neanche di mia moglie, insomma, alla fine le ho preparato in mezz'ora di tempo qualcosa dove ho speso soltanto 40 euro di materie prime. E lo sa che avrebbe fatto il consumatore di un certo livello. Avrebbe cercato in rete catering a casa, faceva venire a casa i camerieri con i guanti che gli apparecchiavano, gli davano cose surgelate, già precotte, così avrebbe fatto il gran figo. Grazie, ha dato un'ottima indicazione. Mi devo fermare un attimo, diamo la linea 800 24 00 24, fate i detective del Chiani e Fotti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Il tuo vicino si lamenta che non hai soldi per il condominio? Il tuo collega piange che non ce la fa a finire il mese con lo stipendio? Il tuo amante ti propone una vacanza mica ragnosa? Bene, sembrano disperati, ma forse recitano la parte degli spiantati. Aiutaci a smascherarli. Diventa anche tu detective del Chiani e Fotti. Ecco alcuni indicatori di benessere occulto. Tu, aiutaci a scoprirne altri. Vogliamo trasparenza. La crisi deve colpire tutti. Altrimenti che crisi è? 800 24 00 24, indicate gli indicatori di consumo occulto. Alessandro, ne ha uno lei? Buongiorno. Buongiorno. Sì, mi allaccia uno dei punti che avete detto prima, quello degli unguenti, degli oli che sì. Si usano da... Ma secondo me... Per l'intima questo, profanazione, per sì. Esatto. È proprio... È come l'estrema unzione, ma non è mai estrema. Che c'è tutto il giorno. Non è più la notte, è anche il giorno, dappertutto. Io conosco tantissimo, tanti colleghi, tanti amici che puttanieri si rivolgono e quello è, no, è, però lei ragiona, è il massimo, cioè, è scusi, il massimo. Dice, se ci fosse tutta questa crisi, come mai lungo le strade c'è la fila, c'è quando pieno c'è, di clienti, vabbè, quelle di clienti pieno. Se ci sono tante prostitute, ci sono tanti clienti. E clienti, quelli sono soldi neri che escono, non è che uno poi li può dedurre in qualche maniera. Non ci sono ricevute fiscali. Quindi c'è un grande sommerso, c'è un grande denaro che gira, liquido, che viene usato in questa maniera. Io non entro in merito il perché e il per come. Questo è un indicatore di consumo occulto. Lei ha ragione, questa è ricchezza occulta e l'indicatore di Alessandro è giusto. Maria, buongiorno. Buongiorno, allora io ne ho tanti invece, potete andare a rimessare. Allora dalla parte femminile, per esempio la parrucchiera, io vado due volte all'anno, io invece ho delle amiche, ci vado tutte le settimane. E si fanno anche diciamo tagli, tutto, ma cosa si fanno? Cosa fanno anche le unghie. Poi? Che non puoi depilazione. Allora, le depilazioni. Anche poi, quello, ma c'è bisogno di andare dalla parrucchiera, scusi. Uno non può prendere il rasoio e la schiuma. No, si prende una bella tinta buona. Le depilazioni, uno prende il rasoio, la schiuma. La lametta, guardi. La lametta si triangola da sola, c'è bisogno che uno vada dalla parrucchiera. No, ma per carità, io non assolutamente, anche sotto braccio. I peli della ascella si leva da sola, lei si ritaglia da sola. Sì, anche diciamo la parte intima se la fa da sola, cioè bisogna andare alla parrucchiera. Certo, anche imbarazzante. Sono quelle pezze che vanno una volta a settimana, mi vado a rifare la depilazione e si fanno le sculture. Ma perché c'hanno i soldi, c'hanno i soldi e lo voglio far vedere. Brava, Paolo, buongiorno. Altro indicatore. Sì, allora il mio indicatore L'ho rilevato un 15 giorni fa andando un weekend con mia figlia a Gardaland, quindi sono i parchi gioco. Sì, parchi. Veramente mezz'ora di coda a ogni attrazione. E quanto costa un'attrazione media? No, fa parte del costo di biglietto d'ingresso, che comunque per papà e figlia 60 euro, poi si mangia dentro, una cosa, l'altra, il gaggettino, insomma 100 euro ti vanno via come capisci? Ridere. Ma non è un indicatore di ricchezza questa, è giusto. Scusi, uno perché non prende una corda, la tira sul ramo di un albero, fa un'altalena e ci fa giocare il bambino? E no, va a Gardaland. O mille cose che facevamo tutti quando insomma, eravamo sì. ragazzini. Nascondino, basta un fazzoletto, gli bendi gli occhi, ti vai a fare una passeggiata e lui conta, che ci vuole. E invece mezz'ora, 40 minuti di coda verissimo, giusto. Gente, niente, io concludo qua, saluto tutti. Grazie, è molto utile è stato. Francesco, indicatore di ricchezza occulta. Buongiorno. Sì. E mi è venuto da ridere, ho pensato al mio passato, una ex fidanzata e la mamma usava scorza di formaggio per i figli, parmigiano per i gatti e San Daniele da 33 euro al chilo per i gatti. Il San Daniele e i gatti. Oh, a proposito, allora, visto che lei ci ha dato quello che si spende nell'indotto animalesco, sono cifre da capogiro, vi do altri indicatori di ricchezza occulta. 7. Dietologi e nutrizionisti hanno gli studi pieni. La gente ingrassa, anche perché mangia sempre fuori casa, va al ristorante e agli aperitivi. Queste persone non potrebbero fare la spesa al mercato e cucinarsi il minestrone a casa? 8. Tutti vanno in giro con la bottiglietta d'acqua minerale di marca. Una spesa quotidiana non indifferente se computata nell'arco dell'anno. Perché non usare l'acqua corrente come si è fatto per secoli? Sembra sciocco, ma mi dite perché uno deve andare dalla dietologa, pagarla per farsi prescrivere un minestrone come dieta, quando poi invece vai da un verduraio qualsiasi e compri le verdure, ti fai il minestrone, le spezzetti, le metti dentro la pentola a pressione, 5 minuti è fatto il minestrone. No, invece si va dalla dietologa, si paga roba tipo 100 euro a seduta, si fanno tutte le analisi, si pagano le analisi, si va anche magari da un analista per capire se ci sono dei problemi tipo psicologico dietro, e intanto la dietologa ride, poi alla fine cosa ti dice la dietologa? Dice: beh, fatti un bel minestrone, è tutto felice, tu avrai speso almeno 300-400 euro, ti fai il minestrone. Però non ti fai il minestrone come ho detto io, le verdurine comprate dal Bangla si fanno a pezzetti, si mette dentro la pentola a pressione, no, si fa il minestrone, si va a comprare nel negozio bio, che il minestrone bio è tutte verdure bio, sono le stesse, perché il bio la mattina va a prendere dallo stesso signore del Bangladesh che le vende, però gliele mette dentro una carta tutta ruvida, ci scrive sopra carciofo del nonno, zucchina del bisnonno, cipolla della nonna, e tu le compri, sono bio e sei molto felice. Leonardo, buongiorno. Buongiorno. Beh, un indicatore secondo me è certamente la gente che va a fare carburante al servito anziché andare al self. Sì? Pronto? Scusi, no, un attimo. La gente che invece di... quando va a mettere benzina? Esatto, anziché andare al self, che c'è il risparmio, che si va al servito. Questo coso ancillare vuol vedere quello che ti infila dentro la pompa, capito? Sembra che ti senti più signore, capito? Non vuoi toccare la benzina con le mani, non vuoi toccare la pompa con le mani, capito? Non ti vuoi sporcare. Quant'è di più? Beh, basta, saranno 5-6% in più di spesa. Ah sì, sicuramente. Anche più magari, capito? Poi magari pretendi che ti lavi pure il vetro. E gli dai pure la mancia per fare il signore. Ma questo lo fanno solo per fare gli spacconi, capito? Poi... Una serie di servizi aggiuntivi, ecco. Certo, beh, questo è un bel indicatore. Quando si va al distributore di benzina, invece di andare dove è self-service, vanno tutti a fare la fila dove vieni servito. Che voglio essere servito. Non voglio toccare con le mani la ruvida gomma unta di gasolio e quindi non mi voglio sporcare le mani, che appena fatto le manicure, vedi che torna tutto. Sebastiano. Sì, buon dì, Coletti. Indicatori, altri indicatori di benessere occulto. Eccoci qua, do il mio piccolo contributo. Una cosa che ho visto è l'acquisto dei sigari. Prima si fumavano sigari tipo toscani da pochi euro. Anche sfusi, li vendevano anche sfusi, toscano sfuso anche. Sfusi, corretto. Oggigiorno, mediamente, quando vado in tabaccheria... Vogliono il cubano. Anch'io, ahimè, mi devo mettere di mezzo, si spende mediamente per 3 sigari, 30 euro quando si vuole andare, diciamo, a risparmio, ecco. Quindi ma per fare gli spacconi, poi per fare gli spacconi lo tiri fuori dall'astuccio di legno, lo infili nel room, lo palpeggi e poi ti fai sta fumata. Ci si atteggia un po'. Vabbè, anche sì, che una volta il vecchio toscanaccio si fumava, anche sfuso lo comperavi, toscano semplice, ho fumato veramente da 18 a 40 anni, quindi mi sono intossicato di toscani, mi piaceva tanto, poi ho smesso, e invece si comprano il sigaro cubano e siamo tutti diventati cubani col sigaro. Questo è anche un altro indicatore, un bel indicatore. Luigi. Sì, buongiorno. Salve. Altri indicatori di benessere occulto? Sì, no, io volevo, più che altro ne avrei tantissimi, io volevo solo dare una piccola parentesi di vita quotidiana. Io faccio il medico, no? Ancora non ho un ambulatorio mio, nel senso che sono giovane per avere ancora un... Quindi dove visita per strada, dove capita? Come? Dove visita per strada i suoi pazienti? Dove li... No, in ospedale, per ora assolutamente gratis, però giustamente. Ho alcuni dei colleghi più anziani che... Hanno gli studi? Hanno gli studi, ovviamente, se uno va per problemi di salute di qualsiasi tipo a visita da un medico, ovviamente deve pagare la parcella. Certo. Però sento spesso molte persone che dicono: Madonna, mi ha chiesto 120 euro, 100 euro, 90 euro, insomma, perché, quanto costa per 30 minuti che sono stato dentro? Però sono persone che magari hanno l'iPhone ultimo modello, certo, in finanziamento, il cane che va in pensione mentre loro vanno in vacanza sempre, certo, col finanziamento. Io queste cose mi mandano in bestia, sarà che vengo da una famiglia di origini assolutamente umili che hanno, si sono sacrificati per farmi studiare. Se questa cosa dei pochi minuti, lei è medico, lo vede nella sua categoria, nella mia categoria, ti chiedono: senti, mi fai una prefazione a un libro? Tanto a te che ti costa, scrivi veloce. Sì, la prefazione al libro te lo devi leggere, e già questo è un massacramento di coglioni, perché leggersi un libro che uno non vuole leggere tanto. Bisogna comunque concentrarsi un attimo. Vuoi metterci frattempo quella pensi, la scrivi, la correggi, 2 ore di lavoro? Ecco, sarà equivalente alla visita di un medico che fa mezz'ora. Ecco perché io devo farle gratis queste cose, me lo spiega Luigi? Lo so, ma è il comune denominatore del... Tanto fai del presto. Popolo normale, capito? Io ho parlato con un'amica mia avvocato, cioè, mi ha telefonato un tuo collega, cioè, per favore mi scrivi una lettera, ti dispiace scrivermi una lettera, sai, per una cosa così, gliela scrivo, dico adesso ti mando la parcella, a me che ci hai messo a scrivere una lettera? Cioè questa ha studiato, si è specializzata, ci si mantiene facendo questo lavoro, chissà perché certe cose non essere. Poi magari queste sono persone che si fanno i colpi di sole e li vedi tutti abbronzati che hanno fatto il lettino abbronzante. Parlo del collega che ha chiesto questa lettera, non dico altro, se no sarebbe facilmente identificabile. A tra poco. Melog. Il tuo vicino si lamenta che non hai soldi per il condominio? Il tuo collega piange che non ce la fa a finire il mese con lo stipendio? Il tuo amante ti propone una vacanza mica ragnosa? Bene, sembrano disperati, ma forse recitano la parte degli spiantati. Aiutaci a smascherarli. Diventa anche tu detective del Chiagni e Fotti. Ecco alcuni indicatori di benessere occulto. Tu, aiutaci a scoprirne altri. Vogliamo trasparenza. La crisi deve colpire tutti. Altrimenti che crisi è? Fabrizio, ci aiuti a fare trasparenza. Fabrizio. Ciao Gianluca, siamo da Milano. I tuoi indicatori di benessere occulto. Guarda, ce l'ho avuto proprio ieri. Io faccio il tassista a Milano. Una signora piangeva, non aveva i soldi per comprare la pastiglia per la bambina. Siamo andati in farmacia. La pastiglia, che pastiglia era? La pastina. Ecco. E si vende in farmacia la pastina? Sotto, bravo. Quelle particolari, sai, dopo lo svezzamento e tutto. Ah, vabbè, sì, fatto sì. Sta il latte, ecco. Ma allora, signora diceva: caro signore, dai me solo 5 euro pannolino, scusa, sono povera ragazza. No. Allora, 18 euro di corsa li aveva per pagarmela, però non c'aveva i soldi per pagare la pappa della bambina. Poverina. Ma questo è un esempio, cioè te ne potrei fare a decine tutte le settimane. Cioè ti ha detto: non posso pagarti perché devo comprare la pastina alla bambina. Bravo. E lei cosa ha detto? Mi ha pagato. No, Luca, mi ha pagato. Voglio dire, se tu non hai soldi per la pappa della bimba, prendi l'autobus. Esatto, io parlo contro il mio interesse. Perché tanto le farmacie sono in ogni angolo, mica c'è bisogno che la farmacia particolare. Ma ti dico, persone disoccupate che guardarle proprio con le, scusa la parola, con le pezze al culo, sì. Però quei mezzi non ci vogliono andare, chissà come mai, con la metropolitana tanto meno. però i soldi li trovano sempre per pagarsi il taxi, per fare queste cose. Vabbè, questo ringrazia la Madonna ogni giorno, accendi il lumicino. Ci mancherebbe altro, però tu parlavi di indicatori occulti e ti dico... Tu dici la gente prende il taxi. Io noto in questa cosa qua. Perfetto, no, Fabrizio, è importante questo. Non si usa il trasporto pubblico, non si va a piedi, si prende il taxi anche quando magari se ne potrebbe fare a meno. Onore a Fabrizio che contro i suoi stessi interessi dice, guarda, c'è della gente che potrebbe benissimo prendere i mezzi, prende il taxi, quindi evidentemente ha dei soldi cash che deve spendere. Saverio, buongiorno. Buongiorno, a me è successo un episodio qualche anno fa, praticamente nel mio condominio c'è stato un incendio, la famiglia... che comunque si vedeva che era benestante in quanto possiede un SUV di 60.000 euro, ha messo in bacheca, guarda, abbiamo perso tutto con questo incendio, non ci vergogniamo ad accettare un aiuto anche economico per risolvere la nostra situazione. Tra vicini ci si aiuta, certo. Certo, noi abbiamo infatti raccolto circa 600 euro nel condominio e li abbiamo dati. Io ogni tanto con qualcuno facevo anche qualche battuta dicendo, ma guardate che con questi soldi qua si saranno comprati i tappetini nuovi. E invece cosa hanno fatto? No, niente, hanno ristrutturato la casa in maniera eccellente, lussuosissima, sì, lussuosissima, eccetera. E in più, dopo qualche mese, sono anche comprato un pitbull. Un pitbull che c'ha il suo costo di mantenimento. Io penso che un pitbull che poi arriva a pesare anche 30-40 kg. Con 600 euro ci mantengono il pitbull 3 mesi, magari. Ma neanche. In più, incontro la figlia 2 settimane fa, dice, guarda, dai forza Billy, fai la cacca nel giardino di questi poveri sfigati che dobbiamo andare a mangiare al ristorante. Cioè, proprio così. Proprio cioè, in faccia. Vi ha fatto fare la cacca con i bocconcini lussuosi che avrà comprato nella boutique del bocconcino per il cane. Pagati con i vostri 600 euro frutto del sudore della vostra fronte. Dopo avervi cacato nel giardinetto, detto questi sfigati, andiamo al ristorante, se no la ragosta si fredda. Lo capisco. Questo è veramente un esempio di benessere occulto. Bravo Saverio. Maurizio, buongiorno. Per rimanere in tema, lei, andiamo avanti. Cosa individua in benessere occulto? La carta igienica colorata, con il doppio, triplo di quella normale. Doppio velo, bianca. Triplo velo, colorata, quella con i disegnini. Esatto. Quella costa un sacco di più di quella normale. Il doppio, il triplo, come minimo. Triplo. Perché la gente anche deve, per la propria igiene, diciamo, posteriore, deve usare la carta igienica con i disegnini? Mi spiega perché. Non lo so. E perché? Hanno i soldi da buttare, domanda. Non sanno dove mettere i soldi. Poi mi scusi, adesso, non per dire, ma una volta nelle famiglie come si deve, il quotidiano non si buttava via, si teneva, esatto, si faceva striscioline e si usava per quello. Nei bagni di ringhiera, in alcune latitudini della nostro paese, c'era il cosiddetto oleopardo, che era un panno messo lì che usava tutto il condominio. però si risparmiava. E così. Invece oggi carta igienica triplo velo. Va bene, Angelo. Buongiorno. Mi dica. Mi sente? Buongiorno. Certo. Cioè, io ho già detto al suo collega, cioè, a volte mi capita di stare dal barbiere, no? Sì. E si parla di crisi, quello non va, no? È duro andare avanti. Poi, quando tocca a questi clienti che sotto il barbiere, si fanno lo shampoo, si fanno i capelli, si fanno la barba, cioè, ma cose per dire barba, la lozione, la cremina, si fanno tutta la lozione, si depilano anche, cioè, le orecchie e il naso, sì, fanno le orecchie, che costa. Cioè, sono cose che poi fa a casa, barba e capelli. Ma io ho visto radio, guardi, lo dico e rabbrividisco, ho visto uomini che anche le unghie si fanno fare, pensi, degli uomini che basta uno compra il tagliaunghie da 2 tagliate, una limata, un uomo, mica una donna, e fanno fare le unghie dal manicure, pensi, una cosa veramente non ci si crede, pensi i soldi che hanno da buttare. Giovannino. Pronto? Sì. Allora, io sono vecchio, però mi professo sempre, ma è possibile che quando vanno a sciare, ora vanno tutti a sciare benissimo, la giacca a vento, i calzettoni, i calzoni, le scarpe, i scarponi, devono essere quelli nuovi, perché quelli dell'anno scorso ultimo non si modello, verissimo, bravo, la gente è che va a sciare... Pazzesca. Che i produttori si lamenteranno, ma producono qualcos'altro. Cambiano outfit ogni anno. Pensi ancora a una giacca a vento di quando andavo a sciare, che avevo 20 anni, sempre la stessa, quella nera con le carte geografiche all'interno, e la metto con orgoglio, veramente, sembra vero quasi. Va bene, Giovannino. Luca, concludiamo con Luca, abbiamo solo un secondo. Luca. Sì, buongiorno. Dica il suo esempio, si lo tolga dalla coscienza. Sì, è un mio collega che piange sempre miseria, fa i conti in continuazione e poi dopo però alla barca. alla barca e si mantiene la barca, capito? Con quello che costa, magari anche il marinaio, magari, capito? Lo so. Vedete, abbiamo messo il dito nella piaga, lo dico per quei due che avevano chiamato all'inizio che sono ancora arrabbiati. Non volevamo dire che gli italiani che vanno al ristorante sono tutti ricchi, volevamo far capire che esiste una fascia nascosta di benessere occulto. Mica perché ci fa invidia, però è bene dirlo, perché non dirlo? Alla prossima.